e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno, sono tornata. Eccomi qua. Eccoci. Ci sono mancata un po'. Dai, sì, che te lo stavo dicendo, dai. A microfoni spenti. Quindi guarda come gongola che vuole che lo mi dica piace. A tutto l'universo mondo. Infatti io sto a casa un po' ogni tanto così. Mi torni raffreddata. Sì, ma non a ti me ci viene, mando più a Roma, Ma a me viene il raffreddore quando sono stanca. Comunque, so. Sono stata una pina operosa. Sì. E ti ho portato una bella notizia. Dove l'hai che trovata? Ci piace molto. È la notizia un po' con cui coinvolgiamo i nostri ascoltatori in apertura di trasmissione. Riguarda lo yoga, disciplina di cui abbiamo parlato tantissime salutiamo volte. Salutiamo la nostra amica Benedetta Spada che ci vuole tanto, certo, bene. Certo, okay. Salutiamo anche Tite Togni che è venuta a trovarci. È vero, anche lei, sì. Salutiamo Daniele Belloni, sono tutti protagonisti dei video, delle notizie, delle informazioni che potete trovare sul nostro sito. Allora, è diventato, come ti dicevo, lo yoga patrimonio immateriale dell'umanità. La decisione è stata presa all'unanimità dai 24 membri di uno specifico comitato dell'UNESCO. Allora io direi c'è un duo che non è immateriale, ma è molto materiale, no? Un sì. Duo, una donna di cuore e una donna di denari. Fate la vostra candidatura, candidateci. Gli indizi sono più che sufficienti. Che dici, Deborah? Spendi una parola. Beh, diventiamo patrimonio dell'umanità. Patrimonio dei nostri ascoltatori. Il busto di marmo qui all'ingresso del Palazzo del Sole 24 Ore, dici? O di cioccolato fondente. Che è meglio, esatto. Partiamo con le notizie di denari, via! Allora, molto nervosismo in borsa e molti operatori attribuiscono questo calo abbastanza consistente delle borse europee alle attese per il referendum italiano. E vedremo insomma come andrà questo caldo weekend, quali scelte faranno i cittadini italiani. Detto questo, la borsa è negativa a Piazza Affari, il FTSE MIB perde un punto, meno 1,32%, Parigi, Francoforte, meno 0,96% e Londra, meno 0,94%. A Piazza Affari in realtà questa mattina tutti i titoli erano partiti male, poi adesso c'è qualche segno di recupero. Come al solito va sull'otto volante Monte dei Paschi, che è partita molto male, ha recuperato tutto, è arrivata a guadagnare quasi due punti, adesso riperde un punto percentuale. È stato rinnovato per altri 10 anni l'accordo di banca assicurazione con AXA, che è un azionista importante di Monte dei Paschi, ma soprattutto oggi scade la conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, o quantomeno l'adesione volontaria dei titolari appunto di queste obbligazioni. Nei prossimi giorni sapremo quanto ammontare di raccolta ha fatto con questa prima fase dell'aumento di capitale Monte dei Paschi, e da lì poi si conoscerà l'aumentare dell'aumento di capitale necessario vero e proprio, che partirà fra il 7 e l'8 dicembre, quindi nel ponte di Sant'Ambrogio. Tutto sempre molto complicato in casa Monte dei Paschi, e intanto il titolo appunto ne subisce le conseguenze. I migliori titoli di stamattina, con delle prestazioni veramente risicate: Telecom più 0,2, Buzzi Unicem più 0,2, Intesa San Paolo più 0,2, Mediaset più 0,09%. I cali più forti: Unipol meno 2,32, Moncler meno 1,88 e meno 1,8%. Lo perdono, appunto, lo fanno UbiBanca, Prismian, Terna, CNH. Abbiamo sempre sotto i riflettori il petrolio. Ieri a New York ha toccato i 54, no scusate, a Londra il Brent, $54 al barile, intorno ai 51 a New York. Stamattina siamo più o meno su questi livelli, siamo a quasi $51 a New York, 53,7 il Brent a Londra, e l'euro recupera abbastanza forte appunto sul dollaro, 1,06,52. Oggi abbiamo un dato molto importante, che è quello sulla disoccupazione americana di novembre. Per la borsa è tutto, sai che faccio, Nicoletta? Vi segnalo una buona lettura per questo weekend. Un tempo il salvadanaio era depositario non solo di monete, ma anche di progetti e stili di vita. Si rompeva quando era pieno, e solo allora il sogno veniva realizzato. Oggi il salvadanaio si svuota ancora prima di riempirsi, perché i nostri progetti e il nostro stile di vita sono avvinti da una catena che ci rende sempre più consumatori e clienti, e troppo spesso debitori. Allora, intanto io torno ad invitare i nostri ascoltatori, visto che abbiamo già fatto una fotogallery di successo con tutti i salvadanai che hanno in casa, ce ne hanno mandati di formati incredibili. Magnifici. Esatto, continuate ad arricchire la nostra galleria, perché noi la allunghiamo e poi faremo un bel libro sui salvadanai d'Italia. Sul contenuto non so cosa possiamo dire, ma sulla forma insomma ci siamo, perché ci sono delle idee molto originali fra i nostri ascoltatori. Detto questo, perché vi ho fatto sentire questo brano? Perché è tratto dal libro SOS Salvadanai. Salvadanaio, la felicità del risparmio in tempi di crisi, 132 pagine, costa 15 euro, è un libro che non parla di soldi ma di persone, di valori, di sogni e bisogni, un nuovo modo per parlare dei grandi temi del momento. Nicoletta, che tipo di risparmiatori siamo? Quanto ne sappiamo di questi argomenti? Quanto e come ci prendiamo cura del nostro salvadanaio? L'autore, almeno lo spolveriamo, è puliamolo ogni tanto, esatto, teniamo la fessurina bella libera nel caso ci fosse la possibilità di mettere delle monetine. L'autore di questo libro è un grande amico di Cuore Denaria, l'avvocato dei consumatori Massimo Melpignano, che salutiamo. Buongiorno avvocato, ben ritrovato finalmente tra di noi. Buongiorno a voi, grazie per l'invito, ritorno con molto piacere, grazie. Allora, prima di chiacchierare, di farci raccontare qual è il contenuto di questo libro dall'avvocato Melpignano, guarda, già che ho fatto sentire tante siglette, stamattina dai, ce ne metto un'altra, anche un'altra. Quella di Rischia Tutto. Brava! Da-da-da. Vediamo se in 4 minuti ce la fate a rispondere al nostro domandone di oggi. Sono sicura che l'avvocato Melpignano ci regala un paio dei suoi libri da regalare a nostra volta ai nostri ascoltatori. Qual è l'articolo della è facile, ragazzi. Qual è l'articolo della nostra Costituzione che tutela il risparmio? 800 24 00 24, pochissimi minuti di tempo per rispondere. Intanto andiamo a SOS Salvadanaio. Avvocato Melpignano, non è l'ennesimo libro che parla di soldi, che ci racconta come si sottoscrive un mutuo, come si apre un conto corrente, che cos'è un'azione o un'obbligazione, ma c'è qualcosa di più. Un libro che parla del bisogno delle persone di essere felici in tempo di crisi. Quindi ha fatto un'esplorazione anche un pochino sociologica, un avvocato. Un po' Cuore Denari, esatto, dai. Avvocato. Anche lui. Sì, beh, no, sociologica no, non è il mio mestiere, non sarei capace, è un po' Cuore Denari, ecco, sì, esattamente. Nel senso che poi i soldi, così come l'alimentazione, spiegano molto di quello che siamo, mangiamo quello che siamo quello che mangiamo, esattamente come siamo quello che spendiamo e siamo in conseguenza del nostro rapporto col denaro. Mamma mia, ho detto una cosa complicata. Una cosa che mi affascina sempre però è cercare di capire con le persone perché usano i soldi in un certo modo, come usano i soldi in un certo modo, e in questi periodi in cui si fa fatica a campare la giornata, una riflessione di questo genere è ancora più importante, perché un'auto-organizzazione del risparmio può aiutare a vivere in maniera più felice la quotidianità. Avvocato, lei, sempre in un passaggio del libro, in qualche maniera sottolinea come per qualcuno il risparmio è una parola che genera tristezza, arrivando ad evocare una pratica che non si connette con la difficoltà di molti, di tanti, forse troppi in Italia, ad arrivare alla fine del mese. In realtà noi sottolineiamo dall'altro canto, appunto, molto spesso quanto lo stock di risparmio privato in Italia sia alto, solido, consistente, e invece per qualcuno non è così, avvocato? Sì, perché una delle domande, una delle risposte che molto spesso mi vengono date è proprio questa: ma come facciamo a risparmiare adesso, proprio in questo periodo? Quindi il risparmio sembra una parola cancellata dal nostro vocabolario, mentre invece è proprio nella storia del nostro paese che con il risparmio, soprattutto nei periodi più forti della nostra Repubblica, penso al periodo postbellico, è proprio con il risparmio che questo paese si è costruito. Spesso commettiamo un errore, colleghiamo alla parola risparmio i soldi che investo, mentre invece il risparmio è una auto-organizzazione della vita, è un gesto quotidiano, e in questo riscoprire le piccole sane regole di buona igiene finanziaria, ad esempio il salvadanaio, può abituare a riscoprire dei valori fondamentali, universali della nostra vita che forse abbiamo un po' dimenticato, certo, finanziarizzando troppo la nostra esistenza. Esatto, e magari qualche volta indebitandoci un po' oltre il dovuto. Questa, lo ricordo, è una grande battaglia che lei fa anche di educazione finanziaria, ha scritto anche dei libri su questo argomento, ne ha scritti tantissimi, noi tante sue iniziative le abbiamo presentate qui nel nostro programma. E a proposito di iniziative, segnalo per tutti i pugliesi all'ascolto in particolar modo che il libro viene presentato stasera alle 19:45 presso l'auditorium della parrocchia San Marcello a Bari. Il ricavato della vendita del libro viene devoluto, avvocato Melpignano, vuole dirlo lei, in beneficenza a chi? interamente in beneficenza per opere di solidarietà, mi diceva ieri il parroco che verrà devoluto ad una casa di senza fissa dimora. Parroco Don Gianni De Robertis, della parrocchia appunto che ospiterà questo evento. Prima di salutarla, avvocato, 10 secondi, tanti capitoli, quale ci suggerisce di andare a leggere al volo del suo libro? E peraltro non ho ricordato la casa editrice, la vuole ricordare lei? Sì, la casa editrice è una casa che mi ospita veramente con grande orgoglio, è La Meridiana, che ha come slogan di pubblicare libri utili. Io non so se il mio libro sarà utile a qualcuno, ma me lo auguro. Certo, il fatto che abbiano accettato di pubblicarlo mi fa ben sperare, ma certamente io non ho dubbi, è il capitolo che risponde alla vostra domanda e quindi non posso dire molto. È il capitolo più lungo del libro, che mi ha molto impegnato, mi ha molto affascinato. Io sono innamorato della nostra Costituzione, questo articolo l'ho studiato, lo studio da anni e continuo a studiarlo. Non posso dire il numero perché altrimenti vincerei il premio, ma i due volumi, anzi anche di più, ve li mando molto volentieri. Quelli per Deborah e Nicoletta sono già in viaggio. Grazie. Domani saranno a Milano. Grazie. L'ascoltatore scrive che l'articolo della Costituzione, l'articolo 6, i soldi tuoi sono miei. Ciao a tutti voi da Giovanni. Va bene, da un Milano Lambrate. No, ma le dico che molti hanno risposto correttamente. Sul finire della trasmissione ne premieremo sicuramente qualcuno. Avvocato, intanto grazie per essere stato con noi. Grazie. Segnalo ancora autore del libro SOS Salva Danaio. Velocemente il traffico, poi andiamo alla nostra rassegna stampa di cuore. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Cuore e Denari. Per la rassegna stampa di cuore, cara Deborah, care amiche e cari amici, vi porto a Barcellona perché voglio presentarvi TAX. TAX è un progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea all'interno del programma Horizon 2020, che ha proprio come obiettivo principale migliorare le conoscenze sul fumo passivo e sulle emissioni delle sigarette elettroniche col fine di limitare appunto l'impatto sulla salute. Ne parliamo oggi con il professore Esteve Fernandez dell'Istituto Catalano di Oncologia e professore all'Università di Barcellona. Buongiorno. Buongiorno. Quanto siamo internazionali qua a Cuore Denari, Deborah? Non ci facciamo mancare niente. Allora, professore, grazie. Poi quando viene a Milano lo vogliamo qua in studio. Il progetto TAX coinvolge 11 istituti di ricerca. Tra l'altro sono da 6 diversi paesi europei, è presente naturalmente anche l'Italia. Posso rapidamente ricordare, professore, i centri che aderiscono: l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze e l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove c'è il nostro dottor Boffi. Quali sono gli obiettivi, professore? Sì, buongiorno Nicoletta e anche Deborah, grazie. I primi obiettivi consistono a studiare l'esposizione passiva alle sigarette tradizionali e anche alle elettroniche. Sul consumo di tabacco tradizionale noi ci fisseremo nei posti che non sono dentro delle leggi ormai a posto nei diversi paesi. E così studieremo il fumo passivo a questi luoghi e anche l'uso delle sigarette elettroniche e, importante, l'esposizione a questi posti pubblici dove a tantissimi paesi si può fumare, certo, o si possono usare le sigarette elettroniche. Professore, ma intanto come stanno procedendo le ricerche che state facendo tutti insieme sul fumo passivo, in particolare sulle sigarette elettroniche? Ci sono delle novità che vuole o delle anticipazioni che vuole darci? Beh, ancora non abbiamo risultati perché è uno studio complesso e dove l'originalità reside a combinare la informazione richiesta per intervista su campioni rappresentativi delle popolazioni a questi 12 paesi, più la misura dei marker d'esposizione del fumo o delle sigarette elettroniche, cioè non quello che la gente ci dice, ma misurando obiettivamente la nicotina nell'aria. E questo è un passo sicuramente in più. Dottor Boffi, buongiorno. Buongiorno. Potevamo farci mancare un collegamento con lei, che tra l'altro andrà a ritirare anche l'Ambrogino d'Oro. Ma dimmi tu che ospiti e che amici ha a cuore Denari. Grazie. Dottor Boffi, vuole salutare il suo collega? Beh, assolutamente, Steve, oltre che un amico, è un collega che stimo moltissimo. Sono onorato che con l'Istituto dei Tumori aderiamo a questo progetto europeo che durerà molti anni. Ma noi, e che speriamo sì, presto potrà. Ma voi fate questa ricerca, ma noi nel frattempo che cosa possiamo sapere di queste sigarette elettroniche, degli studi che state facendo anche sul fumo passivo che viene inalato da chi sta vicino a chi fuma la sigaretta elettronica, chi svapa anzi? Diciamo che l'Istituto dei Tumori ha nei vari packaging, nelle varie parti del progetto, in particolare il ruolo di misurare di più e quindi di far valere un po' le nostre competenze sviluppate negli anni sulle misurazioni nella vita reale del fumo passivo e anche del vapore passivo. L'Italia poi è una situazione particolare perché da un paio d'anni sono state introdotte queste nuove sigarette elettroniche col tabacco, vendute e prodotte da una famosa multinazionale che attualmente intenzione tabacco che attualmente sono disponibili solo in Italia e in Giappone. Quindi è una situazione un po' particolare, quindi siamo all'avanguardia, direi purtroppo, anche nelle conoscenze sulle possibili capacità inquinanti, e noi abbiamo trovato delle sostanze dannose, anche cancerogene, in particolare la formaldeide, nella liberazione di queste nuove sigarette elettroniche col tabacco che liberano il cosiddetto fumo freddo. E quindi secondo noi, secondo il Istituto dei Tumori e penso anche secondo i colleghi del progetto europeo TAC-SHS, dovrebbero esserne impedito l'uso nei luoghi pubblici. Quelle da fumo freddo? Sì, professor... sono un po' più dannose delle certo, altre. Certo, professor ecco. Fernandez, concorda anche lei? Sì, veramente. La cosa è così. L'Italia è particolare per questo, perché negli altri paesi europei non sono introdotte ancora queste sigarette elettroniche. Dunque tutti guardiamo con tantissima speculazione cosa sta succedendo in Italia. Siamo un po' dei capofila anche in questo caso, dottor Boffi. Ma questa volta purtroppo sì. Dottor Boffi, però volevo commentare prima di salutarla la crescita notevole dell'uso delle sigarette elettroniche anche tra chi non aveva mai fumato, tra cui ad esempio sì, molti minorenni, ma i genitori si dicono piuttosto che la sigaretta tradizionale meglio l'elettronica. Abbiamo un facciamo il pensiero è questo. Meglio della sigaretta tradizionale lo è sicuramente, però questo un discorso per gli adulti che vogliono danneggiarsi meno smettendo di fumare, passando al vapore o anche se vogliamo al fumo freddo. Diverso è quell'11% di fruitori, consumatori di sigarette elettroniche che risultano non essere, secondo i dati recenti dell'Istituto Superiore di Sanità, persone che avevano mai fumato prima, e quindi stiamo parlando in particolare prevalentemente ovviamente di adolescenti. Questo secondo noi è una cosa preoccupante, che è in linea con i dati recenti anche dell'America, dove si è triplicato l'uso delle sigarette elettroniche nelle scuole, e questo è secondo noi un rischio che dovremmo cercare di fronteggiare, di non creare una nuova generazione di dipendenti dalla nicotina assunta solo in un modo diverso, ma che rischiano tra l'altro poi da adulti certo, progressivamente di passare alle sigarette tradizionali. Allora io vi ringrazio, devo dare la linea al GR, intanto lavorate per noi, aspettiamo i dati. Grazie, buona giornata. Grazie. Buona giornata, grazie. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore e Denari. Allora, come giustamente Nicoletta anticipava nel giornale radio, domani, sabato 3 dicembre, a parte il fatto che si inaugura la Fiera dell'Artigianato a Milano, e qua ci sarà veramente... Noi quando andiamo? In settimana ci organizziamo, dai, tranquilla. Ok. Però domani si celebra anche un appuntamento molto importante, la 23esima giornata internazionale delle persone con disabilità. Allora, noi dedichiamo a questo tema la pagina di Denari, osservando con attenzione il mondo del lavoro. E ci chiediamo che tipo di accoglienza trova una persona disabile in un mondo che, a detta di tutti, è già duro ed ostile per chi non ha appunto questo tipo di problema. Quindi le aziende sono pronte, ma soprattutto è pronta la nostra mentalità di accoglienza nel mondo del lavoro di persone con disabilità, che comunque sono persone che appartengono ad un mondo estremamente eterogeneo. Parliamo appunto di disabilità a 360 gradi. Con noi questa mattina, per affrontare questo argomento, chi lo ha già fatto esattamente un anno fa in occasione della medesima ricorrenza. Allora, Claudio Soldà, segretario generale della Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, che salutiamo. Buongiorno, benvenuto e ben ritrovato a Cuore Denari. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, senta Soldà, prima di cominciare la chiacchierata con lei, però io ho un adempimento da assolvere, perché abbiamo fatto un quizzone con i nostri ascoltatori, come sempre nella prima parte della trasmissione, a cui abbiamo chiesto qual è l'articolo della nostra Costituzione che tutela il risparmio. Li abbiamo fatti scaldare, abbiamo aspettato che in tanti rispondessero e poi abbiamo scelto appunto un'ascoltatrice che è stata la prima a chiamarci con la risposta, credo, corretta. Stefania da Milano, buongiorno. Lo sa quale articolo della Costituzione prevede questa tutela? Sì, buongiorno. Credo sia l'articolo 47. Molto bene. Grazie Stefania, le mandiamo, non appena ci arriva, SOS Salvadanaio di Massimo Melpignano. Possiamo farlo per la trasmissione. Grazie Stefania, recapitare carina anche all'ultimo ascoltatore che ha chiamato per premiare, perché lui non si è dato per vinto, e quindi anche l'ultimo ascoltatore che poi verrà segnalato dalla regia. Assolutamente, dai. Credo che sia Pasquale da Lecce, tra l'altro essendo anche un pugliese ci perfetto, fa ancora più dai piacere, visto che il libro viene presentato stasera a Bari. Allora, invece, tornando al nostro approfondimento di Denari, all'800 24 0024 potete chiamare se avete piacere di rispondere a questa nostra domanda o di offrirci la vostra testimonianza. Se nella vostra famiglia o tra le vostre conoscenze ci sono esperienze di disabilità, come è stato affrontato il tema dell'inserimento nel mondo del lavoro, dell'inserimento lavorativo? Avete vissuto esperienze positive o negative in questo senso? Hanno prevalso le difficoltà, oppure in qualche maniera, insomma, avete trovato anche aziende disponibili appunto a offrire un percorso lavorativo a questo vostro congiunto in difficoltà? Peraltro, tra l'altro, oggi ci sono sui giornali anche i dati sull'occupazione che sono stati diffusi ieri. Non c'è uno spaccato sugli inserimenti appunto nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. Ci fa però piacere sottolineare, Nicoletta, che il miglioramento dei dati è dovuto anche al maggiore inserimento delle donne, e quindi questo, visto che parliamo di pari opportunità, Soldà, mi piaceva sottolinearlo. Bravo, corretto, che ne dice? Pari opportunità in senso allargato, proprio pari esatto opportunità di accesso per tutti. Esatto. Senta, allora, a proposito, prima di andare al tema di oggi, ci racconta di che cosa si occupa esattamente la vostra fondazione? Noi, quando parliamo di Adecco, come altre agenzie appunto del mondo del lavoro, sappiamo che intermediate domanda ed offerta appunto per il miglior collocamento possibile nel mercato del lavoro di tutte le risorse. Come mai avete creato questa fondazione, che peraltro mi pare compia 15 anni quest'anno? Esatto, esattamente. Infatti, adolescente. 2001, siamo adolescenti ancora, siamo in età della turbolenza adolescenziale. Costituita nel 2001 proprio su volontà del gruppo Adecco, per riuscire a dare una risposta a fasce di popolazione che hanno più difficoltà di altre nella ricerca di un'occupazione. Anzi, spesso e volentieri sono, come dire, in una inattività intesa più di quella che generalmente viene rilevata dall'Istat. Senta, Soldà, mi scusi, non la sentiamo bene. Per caso ha un viva voce oppure ha una cornetta? No, aspetti che provo a avvicinarmi ulteriormente. Ecco, bravo, brevissimo. Bisogna mettere proprio la boccuccia vicino al telefono. Molto meglio, grazie. Meglio, la rifaccio riprendere dove era rimasto, sì. Dicevo, la possibilità di persone con disabilità di incontrare il mercato del lavoro risulta un po' più complicata rispetto alle altre, nonostante il nostro sia un mercato del lavoro abbastanza difficile in generale. Quindi su queste persone, o in generale su coloro che hanno più difficoltà a trovare un'occupazione, si è concentrata l'attività della Fondazione in questi 15 anni. Con progetti specifici ne abbiamo fatti quasi 400 appunto lungo tutto questo percorso, che prendono in considerazione gruppi di persone o persone individualmente, perché poi il percorso di accompagnamento deve essere fatto a livello individuale, lavorando proprio sull'educazione e l'istruzione al lavoro, che è la nostra mission principale, è finalizzata a creare le condizioni perché queste persone siano il più possibile autonome a entrare nel mercato del lavoro, esatto. Quindi uscendo un po' dalle logiche assistenzialistiche, entrando un po' nella logica, certo, del linguaggio con l'azienda. Immagino che bisogna fare quindi, dottor Soldà, un gran lavoro, tra virgolette, educativo o formativo nei confronti delle aziende che non sono capaci e pronte, ma magari disponibili appunto all'inserimento lavorativo di persone con le disabilità. Noi facciamo da molto tempo un gran parlare del tema del welfare aziendale. Allora, ci racconti un po' che spaccato troviamo in Italia. Abbiamo aziende capaci, preparate ad accogliere persone con disabilità nel proprio organico? E se ci sono, quali sono ancora le resistenze più diffuse? Permettetemi di fare una piccola parentesi generale, nel senso che il tema della disabilità, così come quello della diversità, è un tema che riguarda la società. È chiaro che poi nell'azienda, che è forse uno dei pochi rimasti, come dire, contesti di integrazione, di aggregazione, a volte forzata e a volte invece, diciamo così, più libera, risultano i nodi dentro i quali, come dire, vengono rappresentate le criticità che nella società in generale si trovano. Quindi c'è una forte resistenza che dalla società esterna poi si riscontra anche nell'azienda. Non per niente nell'azienda in cui si riescono ad avere, come dire, un contatto immediato e un'integrazione immediata facilitata, sono aziende in cui il direttore personale o le persone che poi diventano colleghi della persona con disabilità hanno già incontrato la disabilità all'esterno, quindi nella loro vita quotidiana. Perché tra l'altro la cosa curiosa è che, come dire, in Europa 6 persone su 10 conoscono qualcuno che in qualche modo è legato a una disabilità. Addirittura, come dire, un europeo su 4 ha in famiglia una persona con disabilità, perché non dimentichiamo che gli 80 milioni di persone con disabilità che vengono, come dire, dichiarate dall'Eurostat riguardano chiaramente tutte le fasce di età, no? Considerando che poi noi viviamo più a lungo e fortunatamente, e come dire, veniamo in qualche modo interessati da forme di disabilità nell'ultimo periodo della nostra vita, infatti il 60% di queste persone ha più di 65 anni, però rimangono, come dire, negli nostri stereotipi, nei nostri comuni, come dire, le figure tradizionali della persona con disabilità sulla sedia a rotelle o la persona con disagio psichico, quindi legata a forme di disabilità anche sensoriale che sono più comuni, che sono quelle che poi le aziende interpretano quando si parla di disabilità. Quindi il percorso di educazione che appunto indicavate voi è quello che ci ha in qualche modo spinti a lavorare sia sulle persone per avvicinarle e prepararle meglio al mercato del lavoro, sia sulle aziende per avvicinarle meglio al mondo della disabilità. E infatti ci sono disabilità e disabilità. Io, se non ricordo male, stavo adesso provando a risalire mentalmente alla trasmissione che abbiamo fatto l'anno scorso e mi ricordo che telefonò un ragazzo che aveva perso, proprio a causa dell'incidente sul lavoro, appunto una mano, e che non accettava questa sua condizione di essere estromesso completamente dal mondo del lavoro, quindi magari diventando proprio, come dire, il pensionato a vita con l'indennità che chiaramente gli spettava, ma aveva tutta la voglia invece di reinserirsi attivamente perché aveva pienamente le capacità a prescindere dall'handicap derivante, certo, appunto dalla mancanza di un arto. Per cui, ecco, giustamente diceva lei, anch'io ieri mentre preparavo il programma riflettevo sul fatto che, pensando a disabilità e mondo del lavoro, mi venivano in mente solamente i casi più estremi, sì, proprio le patologie più importanti. In realtà abbiamo un mondo assolutamente eterogeneo, no, Soldà? Certo, anzi, probabilmente le aziende sono, come dire, forse già abituate o pronte a gestire le disabilità delle persone che già sono assunte, perché, ripeto, rimanendo quindi in azienda per vicende diverse o anche semplicemente per l'anzianità, si acquisiscono delle disabilità che vanno comunque affrontate. Ecco perché comunque l'azienda, e devo dire che negli ultimi anni, come dire, è migliorato molto l'approccio e la sensibilità nei confronti della diversità delle persone con disabilità, sono in qualche modo proiettate, anche per il discorso di welfare a cui accennava prima lei, sono in qualche modo proiettate a considerare elementi, fattori di sviluppo e di accoglienza delle persone che sono legati anche a, come dire, soddisfare quell'esigenza, certo, di integrazione legata al problema fisico, al problema intellettivo, sensoriale. Quindi devo dire che in qualche modo, se faccio un bilancio di questi 15 anni, ecco, si è passati da una resistenza molto forte a un'apertura altrettanto importante. Sì. Quindi, una volta fatto lo spaccato sulle disabilità, Soldà, andiamo allora a fare subito questo spaccato sulle aziende, no? In questo percorso di cambiamento che voi avete registrato. Ci racconti un po' oggi le realtà con cui avete a che fare. Un'azienda vi spalanca la porta perché dice: proviamo a darvi una mano in questo senso. Che tipo di situazioni trovate? Perché qua si va banalmente dalla necessità di predisporre gli spazi, sì, in azienda per accogliere le persone appunto con questi problemi, all'approccio approccio proprio di carattere culturale e sociale, quindi anche alla disponibilità che devono un po' avere tutti i colleghi nell'accogliere queste persone, ad accogliere senza barriere un lavoratore disabile. Ci racconta un po' che cosa trovate, che percorso fate con imprenditori e maestranze, chiamiamole così, e poi appunto l'inserimento in termini concreti come avviene, se può anche farlo attraverso qualche esperienza pratica che avete portato a termine. Noi abbiamo lavorato con molti settori, perché in realtà non sono settori caratterizzati da una maggiore o minore apertura. Forse gli ambiti produttivi sono quelli più, come dire, complicati da gestire, soprattutto sulle disabilità che comportano chiaramente limitazioni funzionali. Però il percorso adatto, una volta che la persona è pronta a presentarsi al mondo del lavoro, quindi ha imparato a presentarsi, ha imparato a gestirsi anche nella relazione con il potenziale futuro datore di lavoro, è necessario intervenire su quella che è la cultura aziendale. Molte aziende dicono: come posso, prima di, come dire, accogliere la persona che ha un'evidente disabilità e quindi per forza di cose bisogna affrontarla anche da un punto di vista, come dire, proprio pratico, operativo, come posso preparare le persone con le quali lavorerà affinché quella disabilità non diventi un ostacolo, ma diventi un valore, quindi che mette in moto un miglior clima aziendale, che mette in moto una serie di, come dire, percorsi virtuosi. Allora, quello che noi proponiamo è di fare dei momenti, sia, come dire, di aula in cui, come dire, cerchiamo di affrontare il tema della disabilità, ma anche dei momenti, come dire, ludico-sportivi, fatti attraverso il supporto di associazioni di persone con disabilità che hanno previsto, ad esempio, nelle partite di calcio con persone con disagio psichico, piuttosto che la corsa con persone cieche, piuttosto che attività di, come dire, di gioco, integrando sia il team dell'azienda che avrebbe poi, come, dovuto lavorare sulla cultura della disabilità, sia le persone con disabilità, quindi incontrandole fuori da un contesto aziendale e iniziando a conoscere la disabilità in maniera diversa rispetto all'obbligo che io in qualche modo, certo, vivo se mi arriva in azienda un collega di cui nessuno mi ha parlato, di cui non so niente, anzi il fatto di non sapere niente mi porta poi ad avere una paura, un timore nella gestione, di conseguenza come alimento quello stereotipo. Ma senta, Soldà, siete voi che chiamate le aziende, sono le aziende che si candidano a fare con voi questi percorsi una volta conosciuta l'attività, l'esistenza della Fondazione Adecco per le Pari Opportunità? Ma devo dire entrambe, che niente, ovviamente noi spingiamo molto e spesso lo facciamo anche al di fuori dell'esigenza che l'azienda ha, organizzando dei momenti di incontro con più aziende. Dall'altra invece sono aziende che partono o dal bisogno di rispondere all'obbligo di legge della legge 68, oppure dal fatto che hanno visto un servizio, hanno letto un articolo, hanno sentito una trasmissione come quella di oggi e nell'esigenza di portare all'interno dell'azienda quel tipo di cultura ci contattano per promuovere un progetto insieme a loro. Certo. Cioè un progetto con loro, cioè la particolare della nostra fondazione è che promuoviamo e sviluppiamo, essendo una fondazione operativa, il progetto direttamente con l'azienda, con il beneficio finale per le persone che abbiamo in qualche modo incontrato attraverso associazioni o attraverso altri canali. Solo per precisare, appunto, lei ha citato una legge, la legge 68, una legge del 99, che ieri così abbiamo un po' ricostruito, costruendo la trasmissione con Marco Lombardo, è una legge che ha superato una normativa preesistente che era del 68, ha strutturato regole nuove per l'inserimento, appunto, di persone con handicap e disabilità nel lavoro, impostandole, leggo proprio dalla norma, sul principio di un collocamento del disabile che rispetti le potenzialità lavorative del lavoratore senza penalizzare però le aspettative dell'azienda che assume. Insomma, si possono trovare tutti i dettagli su internet sui principi di questa norma. Allora, tra l'altro c'è un messaggio, adesso sì, Nicoletta lo legge. Ce ne sono diversi, esatto, ma vi leggo questa richiesta di aiuto di Ileana. Mia sorella, 22 anni, diploma di liceo artistico, disabile con problemi motori e piccoli problemi cognitivi, non lavora. Andate al centro per l'impiego, ci hanno detto che loro non possono cercare il lavoro al posto suo, ma possono solo aiutarla se trova qualcosa a stipulare il contratto. Zero aiuto, nessuna indicazione. Allora, potete darci voi qualche suggerimento utile? Soldà, ecco, non ci sembra un atteggiamento molto costruttivo, ma insomma sui centri per l'impiego potremo aprire un capitolo qua a vario titolo, la loro utilità. Adesso non vorrei attirarmi delle polemiche addosso, però insomma molto spesso l'approccio è questo. Detto ciò, per voi invece che siete specializzati in un lavoro di questo tipo, ecco, cosa può fare la sorella di Leana? Vabbè, innanzitutto, come dire, poi magari possiamo sentirci più tardi o lasciare i nostri riferimenti e capire volentieri. Possiamo dare un contributo, un sostegno. Ecco, ma una persona con handicap e la famiglia che viene a chiedervi aiuto, voi che tipo di, non dico sostegno, ma che tipo di analisi fate? Ecco, delle profilo per capire se può avere il vostro supporto per un inserimento concreto nel lavoro. Allora, generalmente noi, per evitare, come dire, di appunto fare passi falsi, e non abbiamo le competenze, diciamo così, medico-scientifiche per valutare tutte le tipologie di disabilità, ci appoggiamo su associazioni che seguono quel particolare tipo di situazione. Quindi se la persona è collegata a un'associazione ci entriamo in contatto subito, altrimenti noi facciamo il passo. E quindi la persona con autismo piuttosto che altre situazioni, cerchiamo informazioni presso l'associazione che è molto più competente di noi per curare peraltro altre dimensioni del bisogno, perché non dimentichiamoci che poi siamo focalizzati sul lavoro, ma scopriamo che magari la persona vive in un'area cittadina che non è servita dai servizi pubblici in termini di mezzi pubblici, e quindi qualunque tipo di lavoro verrebbe, come dire, in qualche modo valutato in maniera critica, perché non c'è il mezzo per raggiungerlo, e così via. Però generalmente effettivamente in questo paese il tema della disabilità è affrontato quasi principalmente dalle famiglie. Le pari opportunità spesso sono, come dire, non rispettate proprio nella parte di opportunità di accesso ai servizi, perché non c'è una eterogeneità, c'è una omogeneità, c'è un'eterogeneità di servizi. Infatti in alcune zone ci sono delle isole felici con, come dire, servizi che funzionano bene, in altre, come forse il caso della persona che ci scriveva, purtroppo in un'area in cui il servizio non funziona. Quindi il consiglio è: uno, capire sul territorio quali altri servizi esistono, e oggi abbiamo uno strumento che è internet, che ci aiuta molto, almeno nell'individuare quegli interlocutori. Bussare a molte porte, perché questo capita, come dire, per tutti, nella ricerca di occupazione per tutti. Tenga conto che c'è una ricerca europea che dice che nonostante l'Italia sia comunque in una posizione come dire, debole nella classifica dei paesi sul tema dell'occupazione delle persone con disabilità, il divario tra le difficoltà di ricerca occupazionale di tutte le persone o di tutte le altre, a me non piace parlare di normodotati, come non mi piace parlare di disabili, ma di persone prima, alcune con disabilità, altre no, è molto più ridotto in Italia che in altri paesi. Quindi la difficoltà che incontrano come dire, tradizionalmente nella ricerca di occupazione tutte le persone le pone in una condizione molto vicina a quelle delle persone con disabilità. Detto questo, l'obiettivo... L'obiettivo è trovare i servizi sul territorio, pubblici e privati, quindi non solo centro per l'impiego, ma tutte le realtà come Adecco, piuttosto che le associazioni a cui fa riferimento. Come per esempio i taxi comunali che vanno a prendere le persone, le riportano se necessario. Ci sono qualche volta, bisogna però avere i canali giusti per poter chiedere queste informazioni. Qualche volta le famiglie prese da mille difficoltà non sanno neanche dove poter reperire queste informazioni, però le associazioni specializzate lo sanno. Chiuso, poi Soldà? Poi evitare che la persona, fronte ai primi insuccessi, alle prime difficoltà, o la famiglia molli, cioè, ogni giorno avere il coltello tra i denti e attaccare su tutti i fronti, perché questo è lo strumento che purtroppo abbiamo. Senta, Soldà, in 15 anni di attività, lei da quanti anni presiede la fondazione? Da sempre? Io proprio dall'inizio, ho seguito il progetto. Bravo, senta, io immagino che ogni storia che sia conclusa con successo sia stata per voi fonte di grande soddisfazione e gratificazione, ma c'è qualche esperienza particolare che l'ha colpita, che è rimasta impressa nel suo cuore, che vorrebbe, se possibile, replicare per l'eternità? Guardi, abbiamo seguito un progetto sul disagio psichico e abbiamo incontrato questi ragazzi, in particolare due dei 300 che nel caso di 4 anni hanno seguito il progetto a Firenze, che avevano chiaramente una cura farmacologica importante, e dall'altra parte frequentavano questo centro diurno che è un po' il riferimento per le persone, soprattutto per le famiglie che si scaricano in qualche momento di responsabilità della persona. Ecco, abbiamo seguito un percorso che ha visto questi due ragazzi fare dei percorsi di un'ora a settimana dentro un ambiente reale, perché era il tempo massimo di resistenza, e un'ora a settimana per 2 mesi, 2 ore, 3 ore, 4 ore, dopo 18 mesi queste persone sono state assunte a tempo indeterminato con un part time di 4 ore. Quindi queste hanno abbandonato il centro diurno e hanno ridotto l'utilizzo di farmaci, certo, per il percorso. Ecco. Quindi questo per noi è stato, esatto, una delle esperienze. Che e per quanto, esatto, e l'azienda sarà stata molto contenta di aver fatto questa azione. Non parliamo di completamente buoni samaritani, chiaramente le aziende fanno anche i loro interessi e quindi avranno anche capito che questo... queste persone erano utili al conseguimento dei loro risultati economici. Ecco, voglio leggere però due messaggi, arrivano da due ascoltatori non vedenti, entrambe, esatto, sottolineano questo problema. Il primo, il non vedente era considerato una risorsa, scrive un ascoltatore, oggi siamo considerati un peso. Mm-hmm. E l'altro ascoltatore, negli anni 80-90 era facile per un non vedente trovare lavoro come centralinista, oggi non ci vuole più nessuno, oggi si fa una fatica tremenda a trovare lavoro. Soldati, 10 secondi glieli concedo su questa categoria speciale. Ma qui in qualche modo questa categoria è stata, come dire, vittima di una norma che sicuramente gli ha come dire, aiutati, c'è una norma specifica appunto sui centralinisti, e dall'altra però nei momenti in cui la tecnologia ha cambiato le modalità dell'azienda di gestire il centralino, come dire, una modalità organizzazione nuova, li ha visti in qualche, esatto, modo sì, lentamente. Le esternalizzazioni, call center sparsi in tutto il mondo, esatto, e quindi altro che centralini. Nonostante le tecnologie disponibili oggi rendono le persone cieche assolutamente all'altezza di gestire qualsiasi software, qualsiasi programma, e quindi anche qua si tratta più di un aspetto culturale che un aspetto, certo, come dire, tecnico che impedisce. Non mollate, non mollate, magari ai due ascoltatori, anzi a un ascoltatore, quello appunto che ci ha scritto, ci scriva e vediamo se magari la Fondazione Adecco può dare una mano anche a lei. Claudio Soldà, grazie, complimenti, grazie per il vostro voi. Lavoro, in bocca al lupo per tutti i vostri progetti futuri. Grazie, un saluto a tutti. Grazie. Arrivederci. Nicoletta, io bella, racconto... Bella questa intervista, sì, questa puntata. Molti dei nostri ascoltatori ci stanno ringraziando, davvero, per queste informazioni e soprattutto per aver trattato questo tema. Benissimo, allora, brava, lo rifaremo, magari senza aspettare la prossima ricorrenza dell'anno prossimo. La borsa adesso, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. È ricaricante, è finalmente bella, venerdì. Chissà che programmi hanno i nostri ascoltatori? Chiediamolo, senza vincere nessun libro, però possono sempre raccontarcelo. Allora, venerdì, dai, accarezziamo l'idea del weekend, stacchiamo la spina. Guarda due che giorni, bella giornata, magari. Speriamo che il tempo tenga, anche se un po' freddino. Però il weekend per molti di noi è un'occasione magnifica, lo aspettiamo tutta la settimana. Per altri il weekend è un momento in cui arriva puntuale il mal di testa. C'è, infatti, ci sono 200 più tipi di mal di testa, ma uno in particolare è proprio il mal di testa da weekend. Weekend e da che cadiamo di venerdì, abbiamo pensato, chiamiamo il professor Barbanti. Esatto. Buongiorno, professore. Facciamo un po' di prevenzione. Eccola, primario neurologo, buongiorno, all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana. Buongiorno. Allora, è venerdì, quindi il weekend è alle porte. Fa un po' freddino, ha mollato un po', però questa combinazione... Insomma, per chi soffre di mal di testa non è proprio ideale. Professore, oggi abbiamo pensato di chiederle di darci tutte le indicazioni, spiegazioni, aggiornamenti, ma soprattutto di dare l'opportunità ai nostri ascoltatori, contattando il nostro numero verde, di trovare delle soluzioni da lei, indicazioni che puntano sulla prevenzione o magari sulla correzione di alcune abitudini che non ci fanno perdere la testa, diciamo così. Professore. È vero, partiamo dalle abitudini, perché il mal di testa del fine settimana è legato al fatto che c'è troppa distinzione tra il bianco e il nero, e cioè tra una settimana molto contratta, con elevati ritmi di lavoro, magari con un caffè in più per tenerci più che svegli, iperattivi, e poi c'è questo grande scalino da superare, cioè la caduta dello stress verso il sabato, magari un'ora di sonno in più, e stasera qualche bagordo o magari qualche alimentazione così un po' irregolare condita, innaffiata da alcolici. Quindi per non avere mal di testa domani, la cosa che consiglierei per chi di mal di testa soffre è puntare la sveglia domani in un orario intermedio tra quello della domenica e quello del venerdì, di godersi la serata evitando l'aperitivo e di incominciare oggi a prendere un caffè in meno rispetto a quelli che prende nel weekend. In questa maniera il gradino si abbassa e magari diventa un piccolo scivolo che ci accompagna verso il meritato riposo del fine settimana. Ezio ci chiama dalla provincia di Bergamo, vediamo sì. se è disposto a mettere in pratica quello che il professor Barbanti ha suggerito. Buongiorno Ezio. Sì, buongiorno. Effettivamente ho constatato che dopo una settimana di lavoro molto intensa, con orari di sveglia appunto al canto del gallo e di andare a dormire molto tardi, il sabato e la domenica insomma c'è questo problema del mal di testa. Però ho verificato che non assumendo più nemmeno una goccia di caffè, anche mantenendo gli orari, come dire, in settimana di molta sveglia e di domenica anche alzandomi più tardi, non succede più niente, mal di testa scomparso. Quindi ha tolto il caffè. Ma professor Barbanti, ma se ci suggerite il caffè quando il mal di testa viene a trovarci, come mai invece Ezio l'ha tolto e è sparito il mal di testa? Può darsi che Ezio prendesse diversi caffè, ma durante la settimana noi siamo anestetizzati perché pochi pensano che l'adrenalina, che ha così un valore negativo nelle nostre chiacchierate, in realtà è un potente analgesico. E quindi durante la settimana noi siamo, anche quando siamo riposati, in realtà un'ottava sopra col nostro tono, con la nostra attività. E il caffè, che è un potente vasocostrittore, superati 3 caffè al giorno, può nell'emicranico essere un elemento detonante. Ecco quindi che ridurre il numero di caffè e quindi portarlo nella soglia di sicurezza, certamente 2 caffè al giorno non vanno negati a nessun per soggetto emicranico, consente al soggetto di stare un pochino più sicuro. Tra l'altro è un po' il cane che si morde la coda, perché io sono stressato e bevo il caffè per tenere alta l'attenzione, ma il caffè in eccesso mi stressa ancora di più. Quella di Ezio è una meravigliosa descrizione di come questa malattia abbia un piede nella biografia e un piede nella biologia, e lui è stato bravo col piede biografico. Allora, abbiamo detto che il mal di testa da weekend è uno dei tanti tipi di mal di testa, più di 200 tipi o ne avete altri, professor Barbanti? Diciamo più... Ce ne sono 223 sottotipi, ecco. La maggior parte sono emicranie, cefalee tensive, e all'interno delle emicranie ci sono dei sottotipi, quella del weekend, quella mestruale per esempio nella donna, che sono però delle forme molto ritmiche e molto disabilitanti. Sappiamo a volte, allora, il proprio mal di testa è sempre peggiore perché il dolore lo avvertiamo noi. In alcuni casi il mal di testa arriva da solo, in altri da qualche avvisaglia, ad esempio disturbi come nausea, fastidi alla luce, gli odori diventano insopportabili, i rumori particolarmente fastidiosi. Allora, noi abbiamo preparato una scheda. Le domande sembrano banali, ma ai medici servono. Andiamo a sentirle. Il mal di testa ti dà appuntamenti fissi o ti viene a trovare quando capita? Scoppia al mattino appena ti svegli? A fine giornata? O nella fase della digestione, quindi dopo aver mangiato? Dov'è localizzato il dolore? In una zona precisa oppure interessa tutta la testa? È martellante o fisso? Sospetti qualche relazione pericolosa tra il tuo stile di vita e il mal di testa? Leghi l'attacco all'assunzione di alimenti, bevande, attività fisica, stress o farmaci? Con che frequenza si presentano gli attacchi? Una o più volte alla settimana? 2 o 3 volte al mese? O altro? Una specie di questionario, quello che abbiamo proposto ai nostri ascoltatori. Intanto Roberto, a proposito di legame tra alimenti, assunzione di alcuni alimenti o atteggiamenti, abitudini di vita, ci scrive: per 15 anni ho sofferto di emicrania, che nel weekend mi costringeva a letto. 4 anni fa ho smesso di fumare e in 3 mesi non le ho più avute. Professore, abbiamo fatto tante domande che permettono un po' di inquadrare la situazione. Sì, ne vorrei fare un altro, un paio, e cioè rivolgerci a tutti gli ascoltatori in cui il mal di testa è cambiato nel corso del tempo. Non so, uno che aveva un mal di testa localizzato sulla metà della testa e poi diventato diffuso. Oppure soggetti che riconoscono di avere distintamente 2 diversi tipi di mal di testa, perché vedete, il soggetto emicranico, che probabilmente è il paziente che più frequentemente consulta gli studi medici, vince parecchi biglietti alla lotteria anche di altri tipi di mal di testa, mal di testa come piccole picconate o trafitture sentite sulla testa che lo avvertono, lo preoccupano tanto, o cefalee nel corso della tosse. Quindi invitiamo chi ci ascolta a liberarsi dal peso sulla testa e anche dal peso sul cuore relativamente a timori che magari non sono fondati. Alessandro dalla provincia di Pisa, e poi andiamo a sentire le informazioni sul traffico con altri suggerimenti, ma abbiamo selezionato anche Caterina da Bergamo. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, pensavo che fosse la tosse, invece era un rumore. Mamma mia, un leone. Alessandro, allora, ruggisca. No, mi dica lei. No, io praticamente sono più quello che a fine settimana ho questo mal di testa continuo, tutte le fine settimana io completamente mal di testa, e anche quando più che altro mangio la cioccolata. Un certo tipo di cioccolata, naturalmente, non so se lo posso dire. Sì, se è fondente o al latte, diciamo così, o con le nocciole? Al latte. Al latte, ma mangi la cioccolata fondente, anche lei, Alessandro. Mamma, allora, professor Barbanti, professor Barbanti, certo che passarsi il weekend con mal di testa è pazzesco, ma e poi chiederemo al professor Barbanti come intervenire quando il dolore scoppia, cosa fare, aspettare, prendere la pastiglietta, cambiare. Anche ad Alessandro, professor Barbanti, può dare qualche indicazione? Ma intanto le indicazioni non farmacologiche è quello che avevamo detto prima, e cioè di regolare nella seconda parte della settimana un'andatura tipo in autostrada quando sta per arrivare il casello, cioè cominciamo a rallentare un po' prima senza piantare la grande frenata. La grande frenata ci fa venire fuori questo, e quindi trascorrere un venerdì a un ritmo differente, un pochino più diluito, è fondamentale anche con l'aspetto del calo del caffè. Un'altra cosa molto pratica, bere moltissimo il venerdì, l'iperidratazione che andrebbe fatta nell'emicranico sempre, un altro elemento preventivo. E poi tante altre cose che magari diciamo dopo l'interruzione. Ad esempio Franco invece ci scrive: se prendo l'aspirina, ormai si può dire, col caffè, mi passa ogni mal di testa. E a voi, a tra poco. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... Cuore e denari. Se per amore io perdo la testa, la lascio cadere dal collo perché ho le mani per prendere. Allora, facciamo sentire la richiesta di aiuto di Caterina al professor Barbanti. Che ne dici? Mi piace. Caterina, da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Senta, no, intanto, un attimo Caterina, quanti caffè al giorno? Perché io e Nicoletta qua stavamo considerando che un ascoltatore ci ha raccontato che ne prende tanti. Dopodiché io e Nicoletta ci siamo guardate e ci siamo autoconfessate la super caffettiera che parte già di prima mattina a casa nostra. Lei su quanti caffè sta? Io? No, sul più bello Caterina mi cade. Caterina, non abbiamo capito. Dico che purtroppo lavoro in finanza e devo berne tanti per reggere lo stress. Ecco, anch'io sono giustificata allora, con tutta la finanza che mastico durante la giornata. Io li prendo perché il professor Barbanti mi ha detto che comunque la caffeina aiuta. Allora, Caterina, vada che così il professor Barbanti le dà una mano. Lasciamolo parlare il nostro uomo del giorno, professor Barbanti. No, ricordo che il caffè dà tolleranza, per cui se noi decidiamo di fare la restrizione del numero dei caffè, ritorniamo ad avere l'effetto di quando eravamo ragazzi e ne prendevamo i primi, cioè se noi prendiamo 7-8 caffè non avremo più quell'effetto che speravamo, e quindi cogliere l'occasione magari durante le feste natalizie per tornare a quello che non farà mai male a nessuno, che sono un paio di caffè al giorno, ci consentirà il giorno in cui ce ne servono 3 o 4 di avere l'effetto. Però attenzione, il cervello non è una fisarmonica sensibile che va dove vogliamo noi, ci richiama proprio battendoci sulla spalla con il mal di testa dei soggetti predisposti. A volte è proprio l'attenzione per eccesso di velocità, ricordiamocelo sempre. Grazie professore. Caterina, allora. Perfetto, grazie anche per i suggerimenti per il caffè, ci penserò. Io ho un mal di testa con aurea, quindi questi luccichi davanti agli occhi che mi preannunciano l'arrivo del mal di testa da quando sono adolescente. Ero convinta che fosse legato al ciclo mestruale perché si presentava puntualmente tutti i mesi in fase di preciclo. Adesso che penso di essere in menopausa, quindi è sei mesi che sono libera, il mal di testa lo vedo comunque e tutti i mesi, e tra virgolette in concomitanza sempre con le stesse giornate in cui ho dovuto avere il ciclo, quindi in realtà contentissima di essere in menopausa, in teoria mi liberavo del mal di testa, invece il mal di testa è affezionato a lei, Caterina. Mi vuole un bene. Un bene infinito. Dell'anima. Come ce lo scrolliamo di dosso, professor Barbanti? Allora, l'emicrania con aura è diversa dell'emicrania senza aura e non è quella che ci dà, tra virgolette, la garanzia di tramontare con la menopausa. Per esempio, è una forma di emicrania che persiste in gravidanza rispetto alla forma più tipica, quella senza aura. Ricordiamo che cos'è. L'emicrania con aura è la corteccia del cervello che si mette a fare lo sprint. Faccia finta, Caterina, di fare un po' di jogging con la sua amica. La sua amica, immaginiamo che sia Laura, incomincia a fare un grande sprint, accelera, iperfunziona, ma dopo un po' si ferma, boccheggiando, perché deve recuperare. Questo succede nel cervello di chi ha l'emicrania con aura, un eccesso indesiderato di funzione. Allora, prima di tutto non si deve preoccupare, deve segnare gli attacchi e se sono almeno uno al mese ci sono delle cure preventive anche non farmacologiche, per esempio un prodotto a base di 5 biloba, si chiama il costituente chimico il ginkgolide B, assieme al magnesio, al coenzima Q10, ha una risposta egregia e se questo non funzionasse ci sono dei farmaci molto efficaci. Però non temiamo l'aura, l'aura è un fenomeno completamente benigno. Notizia per le ascoltatrici: chi ha l'aura ed è in epoca fertile non deve mai prendere la pillola né fumare, perché l'associazione diventa pericolosa, ecco. Altrimenti nessun problema. Questo lo sottolineiamo. Professore, lei ha suggerito dei rimedi non farmacologici, nonostante abbiamo dedicato delle puntate alle novità in campo terapeutico. Abbiamo parlato di caffè, stiamo ancora nel campo dell'alimentazione. A questo tema lei ha dedicato un libro di cui abbiamo parlato, un libro molto bello, Mangia sano che ti passa, scritto con Emilio Girillo, il cognome è corretto, forse l'ho pronunciato male, è una sorta di alfabeto del mal di testa, dall'A alla Z passa in rassegna tutti gli alimenti che in qualche modo hanno a che fare con il dolore alla testa, li sottopone a processo scientifico e quindi, professore, in questi ultimi due minuti di trasmissione vorrei che lei ci aiutasse a fare la spesa, siamo proprio nel weekend, mettiamo in dispensa e portiamo in frigorifero degli alimenti che possono in qualche modo aiutarci a prevenire il mal di testa o a distanziarne gli attacchi o a ridurne l'intensità. Professore. Bene, allora cominciamo a fare il carrello della spesa. Se compriamo l'acqua minerale, prendendone parecchia, mettiamo della frutta secca perché contiene il magnesio che riduce l'eccesso di eccitabilità cerebrale. Possiamo prendere tranquillamente dei formaggi, i nostri formaggi non sono pericolosi per il mal di testa, anche quelli stagionati non arrivano ad essere come formaggi francesi o anglosassoni, quindi nessun mangiamo problema. Mangiamo italiano. Ecco. Possiamo mettere il cioccolato, perché il cioccolato è un fondente, è stato dimostrato in tutte le maniere possibili, hanno fatto più pulci al cioccolato che a farmaci pericolosi nel passato, non scatena il mal di testa, piuttosto la fame del cioccolato può annunciare che sta per arrivare il mal di testa. Mettiamo del fegato o delle frattaglie, adesso non è un alimento così tanto carino da citare, ma è ricchissimo di riboflavina, la vitamina B2, magari uno le cucina bene queste cose, ha un grande potere preventivo verso il mal di testa. Mettiamo anche alici o pesce grasso, pesce povero, perché anche lo sgombro. Sì, esattamente, perché gli omega 3 contenuti hanno un effetto di contrasto all'azione infiammatoria e contengono anche del coenzima Q10 che è importante per la prevenzione. Una piccola parola, evitare il digiuno, ma, e questa è forse la novità principale non farmacologica, sì, la possibilità di usare la dieta chetogenica, che non va fatta da soli. La dieta chetogenica deve essere prescritta da uno specialista. E noi di questa dieta parleremo prossimamente col professor Barbanti, che salutiamo, auguriamo un buon weekend senza mal di testa. No, noi non ce l'abbiamo, noi solo a sentirlo già ci passa tutto, ci passano tutti i dolori. E soprattutto noi torniamo lunedì. Non è una minaccia, ma una promessa. Buon weekend a tutti. Grazie.